24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Borse europee in salita nonostante la spaccatura tra Bruxelles e Berlino sugli eurobond e la bocciatura di Moody's delle banche francesi. La Grecia è nella zona euro, dicono Merkel e Sarkozy dopo il colloquio con Papandreou. Tutte le novità sulle quattro ruote dal Salone dell'Auto di Francoforte. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Il presidente francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel sono convinti che l'avvenire della Grecia sia nella zona euro e quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Eliseo al termine della conference call tra i due leader, il premier greco Giorgio Papandreou. Quest'ultimo ha confermato la determinazione assoluta del suo governo a prendere tutte le misure necessarie per mettere in pratica tutti gli impegni sottoscritti. E contro la crisi il Parlamento europeo è alle prese con l'eventuale introduzione di obbligazioni europee, tra possibilisti e contrari, tra questi ultimi il commissario agli affari economici Olli Rehn, tra i più aperti José Barroso. Oggi voglio confermare che presto presenteremo delle opzioni per introdurre gli eurobonds, ha detto il presidente della Commissione europea parlando al Parlamento europeo a Strasburgo. Barroso ha chiarito che si tratterà di una lista di opzioni senza alcun obbligo per i singoli paesi e che l'eventuale introduzione delle euro obbligazioni renderà necessaria anche una modifica del trattato europeo. Puntuale è giunta la replica del ministro degli esteri tedesco che ha ribadito l'opposizione della Germania al progetto e ieri seduta positiva per i listini del vecchio continente. Sedute in netto rialzo per le borse europee che ieri hanno chiuso sui massimi di giornata grazie a un colpo di reni nel finale. A Piazza Affari il FTSE MIB ha così segnato più 2,69% e lo share più 2,52%. Francoforte è balzata del 3,3% mentre Parigi più 1,87% è avanzata nonostante i forti cali delle banche dopo il downgrade di Moody's. A Milano balza Ansaldo STS più 20,2% con la controllante Finmeccanica più 16%. Sull'ipotesi di vendita del business ferroviario a General Electric. Meno brillanti finanziari con Unicredit, meno 1,63%, sotto i riflettori per il possibile aumento di capitale, ipotizzato anche dagli analisti di Credit Suisse nel caso di default greco. Mediobanca guadagna lo 0,68%, UBI l'1,1% e Monte dei Paschi l'1,12%. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. E come avete sentito, la giornata è stata positiva anche per Parigi, nonostante il taglio del rating di due banche d'Oltralpe. La bocciatura arriva e, anche se attesa, lascia il segno. Sotto la scure di Moody's cadono Société Générale e Crédit Agricole, risparmiata per ora BNP Paribas, che comunque resta sotto torchio. La risposta dei mercati è quasi scontata, apertura in calo e crollo dei bancari. Poi qualcosa accade e i listini cominciano a risalire, una risalita costante che porta l'Europa a chiudere in rialzo, tirando il fiato, almeno per qualche ora. Aiutano i segnali distensivi sul lavoro da fare per risolvere la crisi della Grecia, che per quanto piccola continua a tenere in tensione tutta l'Unione. Nonostante le dichiarazioni del vice cancelliere tedesco, che ritiene legittimo ipotizzare un default di Atene, la signora Merkel seguita a dichiarare la necessaria unità dell'Eurozona, pena l'effetto domino, un rischio che nemmeno Berlino può permettersi. Oggi poi la Commissione, per bocca del suo presidente, ha battuto un colpo sugli Eurobond. Barroso ha confermato che Bruxelles presenterà le sue opzioni in merito, ma ha sottolineato sia chiaro che non si tratta di una panacea. E anche le parole del sottosegretario al tesoro americano vengono lette in positivo dalle borse. Secondo Geithner, l'Europa ha la capacità per uscire dalla crisi, ma soprattutto è nell'interesse degli Stati Uniti aiutare il vecchio continente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo in Cina, dove si trova l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. A lui Sebastiano Barisoni ha chiesto qual è il punto di vista e il livello di preoccupazione di Pechino per la situazione europea. La preoccupazione generale sulla tenuta dell'euro c'è, ovviamente poi si divide le preoccupazioni per i singoli paesi e la domanda che tutti fanno è: l'euro resisterà o no? Questa è la domanda generale e evidentemente non è diversa in Cina da quella che è in questo momento negli Stati Uniti, insomma. Tutti si chiedono se l'Europa passerà questa tempesta, insomma. Il mio parere è che la passerà, non so se questo è tranquillizzato meno, ecco. Certamente ai cinesi interessa molto il discorso europeo globale, perché non è vero che inneggino ai G2, al rapporto diretto e isolato con gli Stati Uniti. Loro hanno fascinazione per gli Stati Uniti, ma hanno anche paura di essere schiacciati in un rapporto diretto. Quindi per loro l'Europa è davvero